L'avvocato Cesare Ante Tomaso, portavoce dei giuristi democratici di Roma, ho detto bene? Sì, hai detto bene. E con il quale volevamo, per questi redazionali dedicati appunto, anche se un giorno dopo, alla giornata internazionale contro la tortura che si è celebrata ieri, volevamo parlare appunto del disegno di legge che è stato approvato, mi pare, al Senato. E quindi un po' mettere in luce vari aspetti proprio da un punto di vista anche della sua efficacia nei confronti del fenomeno della tortura. Allora, se vuoi cominciare, poi magari interloquiamo. No, possiamo dire questo in linea di massima, cioè che quello che è stato approvato non è il testo che centinaia di migliaia di persone avevano chiesto venisse approvato, sia quello in linea con la Convenzione di Ginevra e adottato dalla gran parte dei paesi tra virgolette civili, e perché appunto è il testo che era stato chiesto con la famosa raccolta delle tre firme lanciata da Oltre Noi Giuristi Democratici, da Antigone e da A Buon Diritto e da altre associazioni. Si chiedeva appunto che venisse introdotto quel testo senza nessun tra virgolette infiorettamento né in un senso né nell'altro, semplicemente il testo che derivava dalla Convenzione di Ginevra, così, ripeto, come applicato in gran parte d'Europa. Non si è voluto fare questo. In Italia c'è qualcuno che continua ad avere paura delle forze dell'ordine, un metus reverentialis che davvero non ha ragione d'essere, secondo me, e ha ragione da questo punto di vista, ha ragione da vendere Luigi Manconi, e si è pensato bene di fare un testo che è assolutamente confuso, pasticciato, è sicuramente un punto di avanzamento, sarebbe qualcosa, diciamo, e noi oggi non ce l'abbiamo nel codice penale il reato di tortura. Prevedere l'inserimento è un passo avanti, sicuramente un grosso passo indietro rispetto a quello che era il testo che aveva elaborato la commissione con Manconi, che si è affrettato in effetti a dire: chiamatelo, se dovesse essere approvato, chiamatela legge ex Manconi, perché non è quella che volevo io. Ciò non di meno, io mi domando, ed è un po' il dubbio, io non ho una certezza da questo punto di vista se sarebbe meglio che entrasse in vigore così com'è oppure no, però insomma sta di fatto che sarebbe comunque un avanzamento, sarebbe affermare qualche cosa, e forse poi su quello si potrebbe costruire dopo. I punti critici sono diversi: il fatto che non venga previsto come reato proprio, cioè come reato commesso esclusivamente dal pubblico ufficiale, quando è evidente che l'unico di questo tipo di reato può essere il pubblico ufficiale, mentre per il privato cittadino si può parlare di tante altre cose, tra cui per esempio la violenza privata ed altri. E poi il fatto che occorra una pluralità di condotte, il fatto poi che nell'applicazione della pena con il giudizio di prevalenza delle attenuanti si giunga ad un'irrogazione di una pena irrisoria. Insomma, questi sono i punti fondamentali di critici, ecco. Direi che nell'arco di chi dice ha detto che non c'era bisogno di questo reato perché già c'erano quelli di lesioni gravi eccetera, e invece il testo poi che, come sottolineavi tu, non definisce la tortura proprio in quanto praticata da chi detiene un potere nei confronti del soggetto torturato, no? Direi che poi alla fine si perde insomma la caratteristica che tu richiamavi proprio della Convenzione ONU dell'84, che lo definisce proprio in questo senso. Quindi, esattamente, come un reato proprio, sì. E quindi questo già mi sembra un problema serio, insomma, rispetto all'efficacia o meno di questo disegno di legge. Fra l'altro ci sono anche dei altri aspetti, cioè è prevista un'aggravante, no? Se non sbaglio, nel caso che sia commesso appunto da pubblici ufficiali, diciamo così. Poi c'è un'altra questione di cui volevo parlare con te, cioè il fatto della reiterazione, cioè mi sembra di aver capito che se si parla di un comportamento unico, esattamente quello che dicevo prima, la pluralità di condotte, quindi la reiterazione, questo è insomma è forse il punto fundolens, insomma, direbbero i giuristi più pesante, sicuramente, che, ripeto, al di là, io credo che su questo c'è una sensibilità comune, possiamo dirlo, ci spetta davvero poco quello che poi è il trattamento sanzionatorio e quella che viene poi la pena erogata nel concreto. Però quella dà anche la misura, se vogliamo, della, dell'importanza del, no, e del significato che si riconosce a un comportamento così, così grave. Però da questo punto di vista sicuramente quello è uno dei, dei punti deboli per eccellenza forse di questa introduzione. D'altro canto io credo anche che tutta questa resistenza mostrata forse ci fa capire che già intanto introdurre questa figura di reato potrebbe forse essere un punto di partenza. Va bene, ma più che altro per dire appunto, affermare una volta per tutte che in Italia la tortura è stata praticata, non si tratta di episodi isolati, ma si tratta anche di modalità con vari livelli ovviamente di gravità che vengono insomma, abbastanza frequentemente messe in atto, insomma. Poi appunto magari la tortura per qualcuno rappresenta il waterboarding, altre cose, invece come è molto dettagliatamente messo nella convenzione che citavamo dell'ONU, si tratta di tutta una serie di comportamenti inumani e degradanti, e fra esatto, l'altro sofferenze fisiche o psichiche con qualsiasi atto, no? Su questo per esempio lo volevo commentare con te, c'è stata la presa di posizione del SAP, no? Il sindacato di polizia, che ha emesso un comunicato e poi ha fatto anche una sorta di manifestazione a Roma, a Milano, contro il reato di tortura, che fa veramente specie. Che commento vuoi fare su questo? A me sinceramente ricorda l'atteggiamento del protagonista del film Indagine di sopra, su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, quando dice appunto ci impediscono di esplicare liberamente le nostre funzioni. Non è una funzione libera quella del pubblico ufficiale, è una funzione vincolata al rispetto di tutto, giustamente, perché è una funzione grave, è una funzione che è vincolata al rispetto di tutta una serie di norme e che all'interno di questa si inserisca, io credo che sia anche poi una garanzia per chi opera bene e non vuole essere accomunato a chi invece pratica la tortura come sistema, come ricordiamo tutti, penso quella intercettazione nella quale si sentiva il responsabile di un, sinceramente non ricordo quale fosse, forse del nord, insomma di una casa di reclusione, il quale diceva il negretto non si picchia di sopra, lo devi portare al piano di sotto, cioè impartiva proprio le modalità con le quali si impartivano, tra virgolette, non lo devi picchiare nella cella ma devi portarlo di sotto, ecco. Cioè, io penso che questo, anche chi il soggetto che ha avuto un moto di repulsione ed ha registrato questa conversazione affinché poi uscisse quasi come un grido di dolore, io penso che si sentirebbe solo protetto dall'introduzione di una norma del genere, e fa veramente specie, ecco. Poi se pensiamo anche che il pubblico ministero, oggi procuratore generale a Genova, Zucca, che è il colui che ha avuto delle conseguenze personali pesantissime nell'impostare il processo, il famoso processo per le torture inflitte in occasione del G8, lì sappiamo quello che è successo, eppure lui stesso ci dice oggi è un testo assolutamente insoddisfacente e avrei avuto problemi a farlo riconoscere, a farlo applicare anche per condannare chi ha compiuto trattamenti umani degradanti come quelli che sono stati imposti a Genova. Sì, poi fra l'altro il SAP in un volantino che ha diffuso dice: noi non abbiamo timore di controlli e verifiche, siamo per le telecamere sulle divise, sulle volanti, negli uffici per certificare quello che facciamo, però non cita per esempio un'altra cosa che è stata richiesta del numero identificativo, che pure è presente in molti corpi di polizia europei. Certo, no, non solo, il numero identificativo, la telecamera, notare che mentre in tutti quanti, insomma noi, la nostra battaglia storica anche, chiediamo l'introduzione dell'identificativo e tutte queste misure insomma tese a salvaguardare, ripeto, chi opera poi nel rispetto estremo della legalità, si introducono misure completamente diverse, cioè si parla di taser, ma ci sono già in atto, basta ripensare a quello che è successo a Piazza Indipendenza quando ci furono le cariche agli operai dell'acciaieria di Terni, lì abbiamo avuto l'esordio delle telecamere se non vado errato, sul appunto fornite in dotazione agli agenti, che guarda caso nel momento in cui è partita la famosa carica immotivata non hanno funzionato. Sì, sì, me lo ricordo, sì, è vero. Questo è il livello. Io insomma credo che davvero siano squalificati davanti all'opinione pubblica, sia squalificato chi dice una cosa del genere, e che però penso al contempo che dal momento che invece ci sono anche voci poche, non tante, ma insomma c'è una minoranza di gente che invece preme perché queste misure, compreso l'identificativo, vengano finalmente adottate e ci si ponga alla pari degli altri paesi europei, bisognerebbe forse queste contraddizioni cercare di farle emergere con più forza all'interno di quei posti. Sì, è un'ultima notazione che sia nel volantino del SAP sia poi nella scesa in campo di Salvini a fianco appunto delle forze di polizia si parli con tranquillità di un qualche sberla, un ginocchio sbucciato e cose del genere, come se fossero la normalità, no? E quindi in un certo senso, facendo leva anche su atteggiamenti che rientrano nella questione della sicurezza, no? Poi riguardano poi tutto il discorso più generale che faremo più tardi con la professoressa Marina La Lotta su proprio la concezione, la questione tra tortura e stato di diritto, no? Ovvero, vabbè, ma insomma, se ti vuoi difendere, delegagli pure il lavoro sporco, insomma, in un certo senso, no? Sì, ma mi immagino, sarei stato curioso nel caso in cui fossero stati colti in flagrante, o il Trota, oppure quell'altro personaggio lombrosiano del tesoriere della Lega, di cui adesso non ricordo il nome, se magari appunto trascinandosi via si fossero provocati qualche scoriazione, del ragionamento sarebbe stato lo stesso. Vabbè, ma insomma, voglio dire, dal leader di una forza come la Lega non mi aspetto, certo. Faccio difficoltà a stupirmi da chi insomma è il leader di una forza che rappresenta praticamente l'egoismo organizzato in forma collettiva. Senti, concludere adesso, qual è il leader, insomma, perché mi sembra che comunque sia tutto fermo per quanto riguarda anche esattamente, questa è un'altra cosa che ti addolora. Scusa, ma ti sento molto disturbato. Eccomi. No, dicevo, anche questa è una cosa che addolora, perché sembrava che insomma ci fossimo, che si fosse addirittura d'arrivo da questo punto di vista, e invece viene continuamente prorogata, fatta slittare l'esame. Bisognerà premere. Io non vedo tanta attenzione, ecco, questa è la verità su questo, sì, voluta, su questo, diciamo, fenomeno. Sicuramente voluta. D'accordo, ti ringraziamo molto e a risentirci allora. Grazie a voi, a presto.